edizione. Le 6 e 15 minuti. Prima di andare a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, vi aggiorniamo su una notizia appena battuta dalle agenzie. Una forte scossa di terremoto, una scossa di terremoto di magnitudo 5 è stata registrata alle 6.35 ora locale, alle 5.35 in Italia, nel sud della Grecia, nella regione del Peloponneso. Secondo i rilievi del Servizio Geologico degli Stati Uniti, l'epicentro della scossa è stato 22 km a nord di Kalamata e a 176 a ovest di Atene. Non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Comunque, una magnitudo 5 sulla scala Richter è considerato un terremoto non particolarmente forte, un terremoto moderato. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nel corso della giornata. Veniamo a darvi le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Apriamo con La Repubblica, perché come già vi dicevamo nel nostro giornale radio, ha questa notizia, questa ricostruzione, questo retroscena. Berlusconi cede sì all'interrogatorio, la decisione dopo l'ultimatum dei pubblici ministeri. Il premier: l'opposizione rovina l'Italia, notizia che a Repubblica arriva dopo l'incontro di ieri tra l'avvocato del premier Niccolò Ghedini e i magistrati. Gli avrebbe detto Ghedini: Silvio, ormai non puoi rifiutarti. A centropagina un piccolo titolo dedicato alla vicenda di Milanese: ora rischia l'arresto, e sottolinea Repubblica il fatto che la Lega abbia lasciato in aula la libertà di coscienza. Di taglio basso, ma con un titolo piuttosto forte, i BTP alle stelle e Tremonti che apre alla Cina, l'Europa sulla manovra, non chiediamo di più a Roma, sollievo in borsa, i BRICS pronti a salvare l'Europa. Da segnalare anche un piccolo titolo sulla vicenda di Massimo D'Alema, che dice no alle nozze gay e poi le scuse, un equivoco. Questo per quanto riguarda La Repubblica. Il Corriere della Sera parla di sfida tra i PM e Berlusconi, accetti di testimoniare o accompagnamento coatto, riporta uno sfogo del Presidente del Consiglio. Il titolo è: io non mi faccio prendere in giro, l'ipotesi in procura con l'avvocato anche se è un test. E poi segnaliamo il commento a firma di Aldo Cazzullo sul Papa e la Corte dell'Aia, la notizia che vi riferivamo poco fa nei giornali radio. Il titolo è: l'ingiustizia di un'accusa. A centropagina foto del Milan, il Milan ferma il Super Barcellona, impresa in Champions. E poi sempre a centropagina i tassi record dei BTP al 5-6%, e i paesi emergenti pronti a sostenere l'Europa. Di questo, tra l'altro, del tema soprattutto dei BTP, dei titoli di Stato, parleremo più avanti in prima edizione. Di taglio basso vi segnaliamo la vicenda che riguarda il capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, fotografato con il figlio del re del pizzo, il precedente di Maradona. Il commento a firma di Aldo Grasso: se i calciatori giocano con i boss. Dal Sole 24 Ore. Dal Sole 24 Ore veniamo al titolo principale che riguarda i BTP. BTP a caro prezzo, borse meglio. Merkel esclude un default della Grecia e i listini risalgono. Milano fa un più 2,2%. E il titolo di spalla è su Berlusconi, PM di Napoli. Berlusconi si faccia interrogare, per il PDL un golpe sentito Ghedini. Il punto di Stefano Folli, il titolo è: una trasferta che ha inasprito i rapporti con la magistratura. Segnaliamo anche il commento di Martin Wolf sul tema dell'Europa e della crisi del debito, ma l'euro non è fuori pericolo. Ma anche sulla crescita, decreto a costo zero, questo è il titolo di taglio centrale del Sole 24 Ore, mentre che riporta anche le posizioni di Barroso e Van Rompuy. Ok, le misure, ora una rapida attuazione. Di finanza invece la vicenda dei BPM, il CDA favorevole alla governance, alla cosiddetta governance aziendale duale, infondate le voci su nuovi soci. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Per rimanere sui quotidiani italiani e poi andremo a quelli esteri, titolo principale della Stampa dedicato agli emergenti in aiuto dell'Europa. Naturalmente anche qua ci sono titoli tanto su Milan quanto sulla vicenda di Berlusconi e dello scontro tra il PDL e i giudici. A centropagina una foto con bambini con bandiere turche, il titolo è Erdogan, un dovere riconoscere la Palestina, il premier turco scarica Assad e punta a costruire un fronte anti-Israele. E poi anche una storia, un'intervista al ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Non è solo scuola dei tagli, va superata la logica dell'anzianità, più soldi ai professori bravi. Così appunto Maria Stella Gelmini, intervistata dalla Stampa. Infine il Messaggero, IPM ultimatum a Berlusconi, si presenti a Napoli entro domenica, interrogato Ghedini. Questo è il titolo principale. A centropagina Barroso che dice bene la manovra e i BTP ancora sotto attacco. La strage nella fabbrica di fuochi d'artificio di Arpino, sbagliata la miscela delle polveri, così la fabbrica è saltata in aria. E storia curiosa che riguarda il maestro Fabio Luisi, maestro d'orchestra. Il maestro preferisce New York e l'opera di Roma gli fa causa. Veniamo ai quotidiani internazionali, un'occhiata almeno generale. Naturalmente i due principali finanziari, i quotidiani finanziari, il Financial Times e il Wall Street Journal, dedicano ampio spazio alla crisi dell'euro, in particolare al tentativo di Angela Merkel di calmare le voci su un possibile default della Grecia. Il Wall Street Journal riporta anche il fatto che insomma si addensano nubi sul destino di James Murdoch, il figlio del magnate, del padrone di Sky. Perché? Perché l'audizione di luglio non è stata considerata convincente dai membri della Camera dei Comuni, lo ricorderete, la vicenda dello scandalo delle intercettazioni telefoniche, ed è stato riconvocato dalla Camera dei Comuni. Riporta anche il Wall Street Journal che l'inchiesta federale sul, lo ricorderete naturalmente, la vicenda della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, la famosa marea nera nel Golfo del Messico, riporta questa inchiesta che c'è responsabilità non solo di BP, a quanto pare, di British Petroleum, ma anche dei contractors. Il New York Times sottolinea i dati sulla povertà americana, perché i poveri americani sono 46 milioni e 200 mila persone, ai massimi da 52 anni, e sottolinea anche il New York Times soprattutto la sofferenza del ceto medio. In Inghilterra due notizie in qualche misura di segno opposto. Da una parte il Telegraph apre con le anticipazioni di una ricerca UNICEF sui bambini inglesi. Sono naturalmente delle indiscrezioni, delle anticipazioni. Era successo che nei mesi scorsi, secondo delle ricerche, da alcune ricerche emergeva che i bambini inglesi erano i più infelici d'Europa. Ebbene, il governo Cameron ha commissionato un'inchiesta, e da questa inchiesta emerge in sostanza che il consumismo compulsivo sta facendo male ai bambini. Non solo, ma anche, se volete, una banalità, ossia che i genitori inglesi passano troppo poco tempo con i loro figli, li piazzano davanti alla televisione, davanti a un videogioco, e questo evidentemente gli fa male. Notizia, se vogliamo, di segno opposto arriva invece dal Guardian, secondo il quale ci sarebbe un piano del governo di Downing Street per ridurre le vacanze delle scuole, per ridurre le vacanze scolastiche. Questo perché? Per incamerare un voto maggiore da parte delle donne. Chiudiamo con altri due giornali, due francesi. Le Figaro, che punta l'attenzione e si chiede il perché le banche francesi siano così in sofferenza in questo periodo, e Le Monde, che invece apre ancora con le rivelazioni dell'avvocato franco-libanese Bourgi, ve ne abbiamo parlato ieri, la vicenda Nella quale questo Bourgie accusa l'ex premier Villepin, l'ex presidente Chirac e anche il leader del Fronte Nazionale Le Pen di aver ricevuto dei quattrini dai leader africani per finanziare le proprie campagne elettorali. E non solo, ebbene, riporta Le Monde, come del resto riportano tutti i giornali francesi, che su questo tema è stata aperta un'inchiesta. Prima edizione. 6, 34 minuti e 30 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Prima Edizione, l'informazione del mattino, del primo mattino di Radio 24. È il momento adesso di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchesi, Italia in controluce, due edizioni, 6:30, 13:30. Che fine ha fatto la leadership di Nichi Vendola? Il governatore della Puglia ad un certo punto era pronto a prendere le redini del centro-sinistra. Tutti i sondaggi lo davano come sicuro vincente di cosiddette primarie del centro-sinistra. E invece nulla. Barbara D'Amico ne ha parlato in questi giorni con i militanti di SEL. Ma dove è finita SEL? Probabilmente alla ricerca di poltrone. Sottoscritta è stata estromessa senza che ci fosse stato un confronto all'interno del partito o del direttivo. Questo per dire che comunque certamente problemi all'interno di SEL ce ne sono. Seppur rammaricata, ritengo che comunque il progetto di SEL vada portato avanti, al di là di quelli che possono essere i ruoli che ad oggi non ci sono più, ma uno comunque si riconosce pur sempre nel movimento. Le idealità che comunque avevano fatto sì che fosse nato un movimento formato da giovani, da donne che credevano fortemente sulle questioni ambientali, ma anche sociali, ma anche legate al mondo del lavoro, evidentemente si sono un po' messe per strada. SEL sconta quello che secondo me è la sorte di tutti i partiti che si basano un po' troppo su personalismi e grandi figure carismatiche. Probabilmente si è rinunciando alla costruzione anche in termini di organizzazione, di struttura. Si è fatto un errore da questo punto di vista, secondo me. Poi non viene dato gambe territorialmente nelle città, non si investe sulla classe dirigente, che peraltro c'è, però si mortificano anche le energie e le passioni. A ottobre ci sarà un congresso straordinario qui a Torino del partito, proprio perché SEL è nata con l'idea di unire e fondere tutte le varie sinistre, tutte le varie anime per cercare di fare un partito più coeso e con l'apporto di tutti, non avere un partito ingessato ma aperto. Era la prima edizione di Italia in controluce, ritorniamo oggi alle 13:30 su Radio 24. Minuti e 34 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Allora, due asse i titoli di Stato in due giorni di seguito, ieri e l'altro ieri, con i rendimenti in fortissimo rialzo. Lo spread, il famoso differenziale di rendimento con i titoli di Stato tedeschi, che misura in un certo modo la maggiore o il minor rischio paese, ieri è arrivato a toccare il record di 400 punti per poi ritracciare e arrivare intorno ai 391. Siamo comunque sui massimi. Saluto Luca Bagato, trader specialista proprio di mercati obbligazionari, amministratore unico di Macro Markets SRL con ufficio di studi e analisi finanziarie indipendenti, che è già stato nostro ospite la settimana scorsa. Bagato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che cosa ha visto in questi due giorni sul mercato? Ma molto nervosismo innanzitutto, e poi il fatto che quando il mercato comincia ad aspettare le aste dei BTP, questo vuol dire chiaramente che sottostante c'è un segnale di incertezza abbastanza forte, sicuramente ci sono state anche voci, rumors, è cominciato un po' quel mercato che purtroppo abbiamo visto nel 94, quello che caratterizza ogni singolo passo sia politico che economico dell'Italia e in qualche modo traduce un po' di questa incertezza direttamente sui mercati obbligazionari. Sicuramente il fatto che lo spread sia riuscito a rimanere entro 400 punti base, secondo me, è anche il frutto di una grandissima azione da parte della Banca Centrale Europea, che già da qualche settimana continua a acquistare titoli di Stato, altrimenti penso avremmo superato molto facilmente questo livello, anche perché sui lei, quindi lei già... dice, mi scusi, lei dice che ieri comunque la BCE ha continuato a comprare? Noi pensiamo di sì, non abbiamo la certezza da questo punto di vista, non c'è una dichiarazione ufficiale, però siamo convinti che se non ieri, almeno l'altro ieri, comunque sia intervenuto un po' per contenere questo movimento, perché il CDS aveva già superato lo spread, era già andato intorno ai 440 punti base già nella giornata praticamente di lunedì. Benissimo, molto chiaro. Che cosa si attende tra oggi e i prossimi giorni, Bagato? Anche se è molto difficile in questa situazione fare delle vere e proprie previsioni, però se si è fatto un'idea, perché poi lei per mestiere si deve muovere sui mercati, quindi insomma un'idea se la sarà fatta. Mi aspetto ancora molta volatilità. Noi da questo punto di vista aspettiamo un segnale chiaro da parte della Commissione Europea e poi chiaramente sia della Francia che della Germania su quello che si pensa di fare sulla Grecia, perché ancora la situazione rimane quantomeno abbastanza critica. Una volta che il segnale è chiaro e che il differenziale di rendimento dei BTP Bund dovesse rimanere veramente contenuto entro i 400 punti base, potrebbe essere effettivamente un'occasione a questo punto anche di rientro magari sui BTP, soprattutto quelli più a breve scadenza, quindi intorno all'anno o a due anni. Però fino a quel momento ci manteniamo ancora con le posizioni abbastanza ferme e non evitiamo in questo momento di cogliere l'allargamento del differenziale come un'opportunità, perché per il momento è un segnale di grande volatilità. E questo dal lato dell'Italia. Il tema della Grecia lo toccava lei. Ieri la Merkel ha cercato di rassicurare, ha detto insomma non si va verso un fallimento, però sembra in realtà che tanto i mercati quanto i governi siano tutti pronti, cioè siamo là. Infatti la situazione della Grecia, devo dire, è una situazione abbastanza anomala, perché in tutte le crisi di credito, poi che siano sovrane, quindi col titolo di Stato piuttosto che emergenti, c'è sempre una chiarezza quantomeno della tempistica in cui inizia effettivamente un evento di credito. Evento di credito vuol dire quando appunto non viene più pagata una cedola, quando è difficile in qualche modo a questo punto pensare a un rimborso. Questo evento di credito al momento sulla Grecia per fortuna non c'è, però l'anomalia è che il mercato continua a considerarlo, guardando le agenzie di rating, come se di fatto fosse avvenuto, come se di fatto fossimo in una situazione di default tecnico, quindi come se di fatto... Lei diceva, mi scusi, i rating e anche i rendimenti. Che sono pazzeschi. I rendimenti sono pazzeschi, stiamo parlando, tanto per darvi un'idea per quanto riguarda la copertura proprio da rischio Grecia sui CDS, a un livello che lunedì aveva toccato i 3.450 punti base, quindi 35 di fatto per cento per coprirsi da rischio Grecia. È un livello di rendimenti sostenibile per un paese chiaramente che rimane ancora all'interno dell'Eurozona, perché di solito questi sono rendimenti di paesi che vanno verso il default. Era ad esempio quello che quotava, tanto per darvi un'idea, la Russia nel 98, poche settimane prima che fallisse, quindi è una situazione insostenibile. Però da questo punto di vista l'Europa continua a tenere abbastanza saldo il timone per evitare appunto un evento di credito tecnico e manovra di fatto su un campo che al momento è abbastanza sconosciuto, quindi gli operatori sono un po' confusi su quello che effettivamente rappresenta la Grecia, cioè si ha un'evidenza di questa crisi sul rendimento ma non si ha un'evidenza di quello che materialmente bisognerebbe fare una volta che venisse dichiarato appunto un evento di credito. Non sappiamo esattamente se la Grecia da considerarsi effettivamente un paese di fatto fallito tecnicamente e quindi verso una via di ristrutturazione, oppure effettivamente un paese che al momento rimane così in attesa di una situazione successiva. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore e anche in cosa si concretizzerà, se si concretizzerà questo aiuto dei cosiddetti paesi BRIC di Brasile, Russia, India, Cina, c'è chi ci mette anche il Sudafrica, c'è chi dice BRICS. Grazie a Luca Bagato, trader, specialista dei mercati obbligazionari, amministratore unico di Macro Markets SRL, e buona giornata. Arrivederci a tutti, grazie. E adesso ci occupiamo di politica e in particolare delle decisioni di ieri della Lega su Marco Milanese. C'è chi ha detto due pesi e due misure, una con Papa e una con Milanese. Saluto Tommaso Labate del Riformista. Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, secondo te come, ti chiedo, te la chiedo subito così, secondo te come andrà a finire? Guarda, mettiamola così, potrebbe andare a finire in maniera nettamente diversa rispetto a quello che si è visto ieri, cioè non è escluso che, come capitò già nel caso dell'arresto di Alfonso Papa, la Lega all'ultimo secondo, partita dalle stesse tipo di premesse, cioè che non bisogna mettere la manette ai parlamentari, non decida alla fine di fare l'esatto contrario e di votare a favore dell'arresto. E quindi probabilmente di mandare in carcere Milanese, insomma, in sostanza. Probabilmente, questo è l'esito che ci fu per Papa, cioè ritorniamo indietro a quello che successe 2 mesi fa, quando Bossi, era all'epoca del discorso di Pontida, aveva anticipato con molta nettezza, tra l'altro, che la Lega si sarebbe espressa in maniera contraria all'arresto di Papa, e questo succedeva naturalmente alla vigilia della riunione della giunta delle autorizzazioni della Camera, che diciamo un po' il primo passaggio che va fatto, anche se non decisivo, perché quello poi è l'Aula che lo fa. Cosa successe poi all'epoca? Se ci ricordiamo, all'ultimo secondo, quando la Lega entrò in aula e Bossi quel giorno tra l'altro assente, d'improvviso i parlamentari del Carroccio votarono a favore dell'arresto di Papa, che in effetti venne, diciamo, autorizzato dalla Camera. Si discusse all'epoca sul fatto se Maroni avesse o meno preso la leadership, diciamo, materiale del partito e sottratta a Bossi assente. Ecco, questo caso oggi ricorda un pochino le premesse. Ricorda un pochino la vicenda di Papa. Prima edizione. 6:47 minuti e 25 secondi, abbiamo un'ultima domanda, ti chiediamo di essere abbastanza breve con Tommaso Labate del Riformista. Allora Tommaso, se veramente avvenisse come tu sospetti, insomma, che possa avvenire, ossia la Lega alla fine in aula vota sì all'arresto di Milanese, alla fine il problema nel partito è conclamato a quel punto. Sì, a quel punto avremmo emergerebbe con massima evidenza l'orientamento che prenderebbe il partito, cioè quello di diventare come pensa da tempo Roberto Maroni, più che un partito legato alle ragioni del Nord, un partito, diciamo, fortemente legalitario, una specie di Italia di valori di destra, che secondo me è da tempo l'obiettivo finale del ministro dell'Interno. Passaggi come quello dell'arresto di Milanese, del voto sull'arresto di Milanese, sono di quei passaggi chiave che, diciamo, determinano le sorti di un partito, soprattutto in un momento come questo, in cui il berlusconismo sembra, come dire, al crepuscolo. Grazie a Tommaso Labate del Riformismo, del Riformista, scusate, è una buona giornata, è una buona giornata di lavoro che immagino sarà intensa. Buona giornata Tommaso. Buona giornata. Come al solito, annunciato dal consueto strappo di giornale, Alessandro Milan per qualche anticipazione. Eccoci sui giornali di oggi. Buongiorno, eccoci Alessandro, Simone, buongiorno. Eccoci. Ti risparmi ovviamente tutta la questione Silvio Berlusconi, va o non va? Si presenta o non si presenta? O fa arrivare i magistrati a Palazzo Chigi? L'incontro sarebbe sicuramente a Palazzo Chigi, questa è l'unica cosa certa, è la prerogativa della Presidenza del Consiglio di essere interrogato comunque a Palazzo Chigi, anche se Repubblica dice vorrebbe Palazzo Grazioli, ai dettagli, micro dettagli, insomma. Vabbè. E poi sui giornali ho trovato alcune cose curiose, tipo la tassa più odiata dagli italiani, indovina qual è? Vabbè, già hai letto il titolo sul Corriere della Sera, quindi come a scuola hai copiato, è il canone della RAI. Il canone della RAI, la tassa più odiata. Sono curioso sulla numero 2. Italiani. Il bollo auto. Il bollo auto, ma a grande distanza, cioè il canone Rai trionfa, no? Nell'odio degli italiani nei confronti delle tasse. Brevemente, e poi non andare mai a prendere la residenza a Cittadella, dove il sindaco, che è l'onorevole Bitonci della Lega, oltre al kebab già vietato, ora vieta videopoker, gioco d'azzardo e anche un sexy shop. Morigeratissimo a Cittadella. Grazie Alessandro Milan, che troveremo tra poco, appunto, anche con le prime pagine del giornale con 24 Mattino. Noi chiudiamo prima edizione alle 6:50 minuti e 15 secondi. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni in redazione. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo tra poco col GR.